Marina Longa Via, morosamente, Marina Longa Via, morosamente. E credo che la vita si va a piacere, che non parlate no di citi niente, che non parlate no di citi niente. Alza sa testa di si to cucina, figliola muti di con due palori, figliola muti di con due palori. Se non ti levi mi ti remammazzo con un coltello mi per un cuore, con un coltello mi per un cuore. Per mano poco che mi levo mai, però mi sento solamente cioè, però mi sento solamente cioè. E sa figliola si fossi la mia, non ti la reggio non ci faria, non ti la reggio non ci faria. Uno d'arangernato da lumia, e andalo mezzo la persona mia, e andalo mezzo la persona mia. Quando tra siete punta su tiraro, lo fate dire come un lampetrono, lo fate dire come un lampetrono. E la palumbella rinchi, li cannelli, lo risignolo vi, li porta a mano, lo risignolo vi, li porta a mano.